Italia si suicida un disoccupato al giorno, lo dicono i dati pubblicati recentemente da Eures. Dal 2008 i suicidi o i tentativi di suicidio legati alle difficoltà economiche sono cresciuti di oltre il 40%. Cronaca di tragedie quotidiane che ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo discorso per il 1° maggio. Anche i casi estremi del lavoratore sull'orlo della disoccupazione o dell'imprenditore sull'orlo del fallimento che si tolgono la vita non possono non addolorarci e scuoterci. È essenziale che si rafforzi ed esprima oggi nel nostro Paese a tutti i livelli il senso di una comune responsabilità e solidarietà sociale. Anche il grande cinema racconta la crisi, il dramma professionale che diventa familiare. Recentemente lo ha fatto L'industriale di Giuliano Montaldo. La sua azienda è morta. Io ho preso questa fabbrica da mio padre. Per 40 anni abbiamo rispettato gli impegni, abbiamo sempre pagato tutto, è tutto. Mi dici cosa sta accadendo? Ho paura. Ho paura di perdere te, di perdere l'azienda. Mi sono spaventato. I miei tedeschi hanno fatto una proposta bassa, 25%. Non voglio cedere, allora sto cercando di inventarmi qualcosa per spaventar loro. Forse ci riesco. Come il regista, anche lo sceneggiatore di Circuito Chiuso, Riccardo Loffredo, conosce molto bene la precarietà. Il cortometraggio nasce dal suo testo. Sono stato precario per tantissimo tempo. Attualmente, tecnicamente, potrebbe essere che non lo sia più, perché ho un contratto a tempo determinato da pochissimo tempo, da pochissimi giorni, però diciamo vengo da una lunghissima esperienza di precariato e quindi volevo dare voce alle persone che come me, che tra l'altro non sono più giovani, io ho 48 anni, continuano a trovarsi in questa situazione. Nella storia emerge non solo la disperazione ma anche il ricatto al quale vengono spesso sottoposti i precari. È una situazione di ricatto perenne che ti porta a dover subire non solo la precarietà ma anche tante ingiustizie a non esprimersi al massimo sul lavoro e nella vita. Che cosa vuole essere la storia? Una denuncia, una testimonianza? Allora, è sia una denuncia che una testimonianza, ma soprattutto quello che mi premeva e ci premeva fare era mettere in luce questo aspetto del precariato che è meno conosciuto. Valentino Innocente, il regista, è veneto, un territorio che, come sappiamo, la crisi ha segnato profondamente. Nella mia terra ho trovato l'ispirazione, ci dice, ma il messaggio è universale. L'ho sentito molto, però devo dire che chi guarda Circuito Chiuso vede nel protagonista della storia una storia universale, nel senso che il protagonista potrebbe essere sia un imprenditore sia un impiegato dal nord al sud. Era la seconda puntata di Italia in Controluce. Ringrazio Maria Luisa Pezzali per questo servizio dedicato alla crisi, al precariato e ai suicidi. Torniamo domani alle 6.30 e apriamo una pagina di politica nazionale con Valeria De Rosa e parleremo della crisi del Popolo delle Libertà.